ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Settima puntata. Sullo stretto tavolo operatorio se ne stava adagiato il cane Sharik e la sua testa batteva impotente contro il cuscino d'incerata bianca. Il ventre era stato rasato e adesso il dottor Bormental, respirando pesantemente e affrettandosi, penetrando nel pelo con la macchinetta, stava rasando la testa di Sharik. Filip Filipovic, appoggiato coi palmi delle mani alla tavola, con occhi lucenti come la montatura dorata dei suoi occhiali, controllava la procedura e parlava agitato. «Ivan Arnoldovic, il momento più importante sarà quando entrerò nella sella turcica. Sull'istante la supplico, mi passi l'ipofisi e ricucia immediatamente. Se a quel punto dovesse cominciare a sanguinare, perderemmo tempo e perderemmo pure il cane. D'altronde anche così per lui non c'è alcuna chance». Tacque un attimo, socchiudendo gli occhi, gettò un'occhiata come beffarda all'occhio semiaperto del cane addormentato e soggiunse: «E lo sa che mi dispiace per lui? Si figuri che mi ci ero abituato». In quel mentre sollevò le braccia come a benedire lo sfortunato cane Sharik in vista di una difficile impresa. Fece in modo che non ci fosse nemmeno un granello di polvere sulla gomma nera. Da sotto il pelo rasato si cominciò a intravedere la pelle biancastra del cane. Bormental mise da parte la macchinetta e s'armò di un rasoio. Insaponò la piccola testa inerme e cominciò a radere. Sotto alla lama ci fu un gran scricchiolio, qua e là apparve del sangue. Rasata la testa, con un batuffolo imbevuto di benzina, l'azzannato la tamponò. Quindi distese il ventre privo di peluria del cane e proferì sbuffando: «Fatto!» Zina aprì il rubinetto del lavabo e Bormental si precipitò a lavarsi le mani. Zina vi versò sopra dell'alcol contenuto in una boccetta. «Posso andare, Filip Filipovic?» domandò gettando un'occhiata di sfuggita alla testa rasata del cane. «D'accordo». Zina scomparve. Bormental continuò a darsi da fare. Con delle garze leggere, circondò la testa di Sharik e a quel punto sul cuscino apparve il calvo cranio di un cane che mai nessuno aveva visto e uno strano muso barbuto. Fu allora che il sacerdote si mosse, si raddrizzò, gettò uno sguardo alla testa del cane e disse: «Beh, che Dio ci benedica! Bisturi!» Da un cumulo luccicante posto sul tavolino, Bormental tirò fuori un piccolo bisturi panciuto e lo porse al sacerdote. Quindi si infilò dei guanti neri uguali a quelli del sacerdote. «Dorme?» chiese Filip Filipovic. «Dorme profondamente». I denti di Filip Filipovic si serrarono, gli occhietti mandarono un bagliore acuto e pungente e, brandito il piccolo bisturi, con movimento meticoloso il professore tracciò una lunga incisione sul ventre di Sharik. Subito la pelle si divise in due e il sangue ne zampillò in varie direzioni. Bormental si gettò rapace, con dei batuffoli di garza tamponò la ferita di Sharik, quindi con un paio di pinzette piccole, simili a quelle per lo zucchero, ne ricongiunse i lembi e la ferita smise di sanguinare. Sulla fronte di Bormental comparvero goccioline di sudore. Filip Filipovic tagliò una seconda volta e in due si misero a squarciare il corpo di Sharik con uncini, forbicine, divaricatori. Saltarono fuori i tessuti rosa e gialli che piangevano lacrime di sangue. Filip Filipovic rigirava il bisturi nel corpo, quindi gridò: «Forbici!» Lo strumento balenò tra le mani dell'azzannato come tra quelle di un prestigiatore. Filip Filipovic penetrò in profondità e dopo alcuni giri estrasse dal corpo di Sharik le ghiandole seminali con alcuni peduncoli. Bormental, completamente fradicio per l'impegno e l'agitazione, si precipitò verso un barattolo di vetro e ne estrasse delle altre ghiandole seminali, bagnate e pendule. Tra le mani del professore e del suo assistente presero a saltellare, ad avviticchiarsi, delle corte corde bagnate. Agri curvi presero a schioccare ripetutamente nei morsetti. Le ghiandole seminali vennero ricucite al posto di quelle di Sharik. Il sacerdote si allontanò dalla ferita, vi ficcò dentro un batuffolo di garza e ordinò: «Ricucia subito la pelle, dottore!» Quindi lanciò un'occhiata al tondo orologio bianco da muro. Ci abbiamo messo 14 minuti, lasciò filtrare Bormental tra i denti serrati e con un ago ricurvo penetrò nella pelle floscia. Quindi entrambi presero ad agitarsi come due assassini con il tempo contato. «Bisturi!» gridò Filip Filippovic. Il bisturi gli saltò in mano come da solo, dopodiché il volto di Filip Filippovic si fece terribile. Digrignò i denti ricoperti d'oro e di porcellana e con un unico gesto tracciò una corona rossa sulla fronte di Sharik. La pelle dal pelo rasato fu staccata come uno scalpo. Le ossa del cranio vennero messe a nudo. Filip Filippovic gridò «Trapano!» Bormental gli porse una trivella luccicante. Mordendosi il labbro, Filip Filippovic cominciò a far penetrare la trivella e a forare il cranio di Sharik con piccoli buchetti a un centimetro di distanza l'uno dall'altro, in modo da disporli tutti attorno al cranio. Per ciascuno non impiegava più di 5 secondi, quindi inserita all'estremità di una sega di foggia mai vista nel primo forellino, cominciò a segare come si sega una cassettina dove riporre i ricami di una signora. Il cranio strideva piano e sussultava. Nel giro di 3 minuti la calotta del cranio di Sharik venne tolta. A quel punto fu messa a nudo la sommità del cervello di Sharik, grigia e con venature azzurrognole e macchie rossastre. Filip Filippovic penetrò con le forbicine nelle membrane e le aprì. Un'unica volta si levò una sottile fontana di sangue che andò quasi a finire negli occhi del professore e ne asperse il copricapo. Bormental, con una pinza emostatica, scattò come una tigre per fermare l'emorragia e ci riuscì. Su Bormental il sudore scorreva a fiumi e il suo volto si era fatto carnoso e multicolore. I suoi occhi saettavano dalle mani di Filip Filippovic al piatto sul tavolino. Lo stesso Filip Filippovic era diventato davvero spaventoso. Dal naso emetteva un sibilo rauco. I denti erano scoperti fino alle gengive. Scortecciò una meninge dal cervello e penetrò ancor più in profondità, spostando mezzo emisfero cerebrale fuori dalla cavità aperta. E in quel momento Bormental cominciò a impallidire. Con una mano afferrò il petto di Sharik e disse con voce roca: «Il polso sta diminuendo rapidamente». Filip Filippovic gli lanciò un'occhiata feroce, ringhiò qualcosa e penetrò ancor più in profondità. Bormental, con uno scricchiolio, ruppe una fialetta di vetro, ne aspirò il contenuto con una siringa e, perfido, trafisse Sharik in un punto vicino al cuore. «Mi sto avvicinando alla sella turcica», ruggì Filip Filippovic, e con i guanti viscidi e insanguinati spinse ancora il cervello giallo e grigio di Sharik fuori dalla testa. Per un istante guardò di sfuggita il muso di Sharik e Bormental subito ruppe una seconda fialetta e ne aspirò il contenuto con una lunga siringa. «Nel cuore?» chiese intimidito. «Cosa me lo sta a chiedere?» ringhiò il professore. «Tanto le è già morto tra le mani 5 volte. Faccia l'iniezione. Ma è mai possibile?» Nel dir ciò, la sua faccia era diventata quella di un brigante esaltato. Il dottore di slancio ficcò con gesto lieve l'ago nel cuore del cane. «È vivo, ma... appena appena», sussurrò intimidito. «Non è il momento di star lì a ragionare se sia vivo o meno», sibilò il terribile Filip Filippovic. «Ho raggiunto la sella, tanto morirà comunque». «Ah, ma che sacro lido! Mi passi l'ipofisi!» Bormental gli porse una boccetta nel cui liquido denso oscillava appeso a un filo un batuffolino bianco. Con una mano... «Non appari in Europa, come vero Dio», pensò confuso Bormental. Estrasse il batuffolino oscillante e con l'altra ne tagliò via, con un paio di forbicine, un altro identico in fondo alla fessura tra i due emisferi divaricati. Il batuffolino di Sharik fu gettato sul piatto e quello nuovo fu inserito nel cervello assieme a un filo e con le dita tozze, che come un portento si erano fatte sottili e agili, il professore si ingegnò ad avvolgerlo con un filo ambrato. Dopodiché tirò fuori dalla testa divaricatori, pinzette, rimise il cervello all'interno della scatola cranica, si tirò indietro e domandò, ormai già più calmo: «È morto, non è vero?» «Polso debolissimo», rispose Bormental. «Ancora adrenalina!» Il professore rimise le meningi sul cervello. La calotta segata via la rimise a misura. Riabbassò lo scalpo e ruggì: «Ricucia!» Bormental in 5 minuti cucì la testa, dopo aver rotto 3 aghi. ed ecco che sul cuscino apparve sul fondo colorato di sangue il volto inerte e spento di Sharik con la ferita circolare sulla testa. Allora Filip Filippovic si scostò definitivamente, come un vampiro sazio, si strappò via un guanto facendone scaturire una nuvola di talco, lacerò l'altro, lo scagliò a terra e suonò premendo un pulsante sulla parete. Zina apparve sulla soglia, voltandosi in modo da non vedere Sharik e il sangue. Il sacerdote, con mani coperte di gesso, si tolse la tiara insanguinata e gridò: «Dammi subito una sigaretta, Zina! Biancheria pulita e un bagno!» Appoggiò il mento sul bordo del tavolo, con due dita sollevò la palpebra destra del cane, guardò nell'occhio che stava palesemente morendo e proferì: «Che se lo porti il diavolo, non è crepato, ma comunque creperà. Dottor Bormental, dispiace per il cane, era affettuoso, anche se era furbo.» Quaderno del dottor Bormental, sottile, formato carta da lettere, coperto dalla grafia di Bormental. Sulle prime due pagine accurata, fitta e chiara, sulle successive larga, inquieta, con una gran quantità di scarabocchi. 22 dicembre 1924, lunedì, diario clinico. Cane da laboratorio dell'età di circa 2 anni, maschio, razza bastarda, nome Sharik. Pelo rado a ciuffi, brunastro con macchie rossicce. Coda color latte bollito in forno. Sul fianco destro tracce di ustioni perfettamente cicatrizzate. Alimentazione, prima dell'intervento del professore, pessima. Dopo una settimana di soggiorno, del tutto ben nutrito. Peso 8 kg, punto esclamativo. Cuore, polmoni, ventre, temperatura nella norma. 23 dicembre. Alle 8:30 di sera, effettuata dal professor Probaczynski, la prima operazione in Europa. Sotto anestesia a base di cloroformio, asportati i testicoli di Sharik e al loro posto impiantati i testicoli umani con peduncoli e dotti seminali prelevati da un uomo di 28 anni deceduto 4 ore e 4 minuti prima dell'operazione e conservati dal professore in liquido fisiologico sterilizzato. Immediatamente dopo, previa trapanazione della calotta cranica, estirpato peduncolo del cervello, ipofisi, sostituito da ipofisi umana prelevata dal sopracitato individuo. Consumate 8 unità di cloroformio, 1 siringa di canfora, 2 siringhe di adrenalina nel cuore. Descrizione dell'operazione. L'esperimento basato sul trapianto combinato di ipofisi e testicoli vuole chiarire la questione dell'attecchimento dell'ipofisi e in seguito del suo influsso sul ringiovanimento dell'organismo umano. Ha condotto l'operazione il professor F. Probaczynski. Ha svolto la funzione di assistente il dottor I.A. Bormental. La notte successiva all'operazione, cali ripetuti e preoccupanti del battito, attesa di una conclusione infausta, dosi massicce di canfora su prescrizione del professore. 24 dicembre. Al mattino miglioramento. La respirazione è aumentata del doppio. Temperatura 42 gradi. Iniezioni sottocutanee di canfora, caffeina. 25 dicembre. Nuovo peggioramento. Il polso si percepisce a fatica. Raffreddamento delle estremità. Le pupille non reagiscono. Adrenalina nel cuore e canfora su prescrizione del professore. Soluzione fisiologica in vena. 26 dicembre, qualche miglioramento, polso 180, respiro 92, temperatura 41 gradi, canfora, alimentazione tramite clisma. 27 dicembre, polso 152, respiro 50, temperatura 39,8 gradi, le pupille reagiscono, iniezioni sottocutanee di canfora. 28 dicembre, miglioramento significativo, a mezzogiorno improvvisa sudorazione abbondante. Temperatura 37 gradi, ferite da operazione in condizioni immutate, nuova medicazione. È ricomparso l'appetito, alimentazione liquida. 29 dicembre, inaspettata caduta del pelo sulla fronte e sui fianchi. convocati per consultazione professore della cattedra malattie della pelle e direttore istituto modello di veterinaria di Mosca. Per entrambi trattasi di caso mai descritto nella letteratura. La diagnosi è rimasta non definita. Temperatura normale. Appunto a matita. A sera si è manifestato il primo latrato, ore 8 e 15 minuti. Merita attenzione il brusco cambiamento del timbro e del tono, abbassamento. Il latrato, invece della parola bau bau, è passato alla sillaba a-o. Nel timbro ricorda lontanamente un gemito. 30 dicembre. Il diradamento del pelo ha assunto un carattere di alopecia generale. La pesatura ha dato un risultato inatteso. Peso 30 kg, dovuto alla crescita, allungamento delle ossa. Il cane è sempre disteso a letto. 31 dicembre. Appetito colossale. Nel quaderno segue uno scarabocchio. Dopo lo scarabocchio, con grafia affrettata, alle 12 e 12 minuti il cane ha distintamente abbaiato la parola Abir. Nel quaderno c'è un'interruzione più avanti, scritto evidentemente per errore a causa dell'agitazione. 1 dicembre, cancellato, corretto, 1 gennaio 1925. Fotografato nel corso della mattinata. Abbaia distintamente Abir, ripetendo la parola a voce alta e come con gioia. Alle 3 del pomeriggio, a lettere maiuscole, si è messo a ridere, provocando lo svenimento della cameriera Zina. A sera ha pronunciato 8 volte di fila la parola Abir Valg, Abir. A matita a caratteri obliqui, il professore ha decifrato la parola Abir Valg. Essa significa glavriba, qualcosa di prodigio. 2 gennaio, fotografato col magnesio mentre sorride. Si è alzato dal letto e per mezz'ora è rimasto con sicurezza sulle zampe posteriori. È alto quasi quanto me. Nel quaderno è stato inserito un foglio. La scienza russa ha rischiato di subire una grave perdita. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.